Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sulla cima di Monte Morco adesso tutto era nitido, sotto la gran luce. La cupezza di quella notte però ristagnava ancora in fondo all'anima di Don Fabrizio. Il suo disagio non era di natura politica e doveva avere radici più profonde, radicate in una di quelle cagioni che chiamiamo irrazionali, perché seppellite sotto cumuli di ignoranza di noi stessi. L'Italia era nata in quella accigliata sera a Donna Fugata, nata proprio lì, in quel paese dimenticato, quanto nell'ignavia di Palermo e nelle agitazioni di Napoli. Una fata cattiva, però, della quale non si conosceva il nome, doveva essere stata presente. Ad ogni modo, era nata, e bisognava sperare che avrebbe potuto vivere in questa forma. Ogni altra sarebbe stata peggiore. D'accordo. Eppure questa persistente inquietudine qualcosa doveva significare. Egli sentiva che durante quella troppo asciutta enunciazione di cifre, come durante quei troppo enfatici discorsi, qualche cosa, qualcheduno, era morto. Dio solo sapeva in quale andito del paese, in quale piega della coscienza popolare. Il fresco aveva disperso la sonnolenza di Don Ciccio. La massiccia imponenza del principe aveva allontanato i suoi timori. Ora, a galla della sua coscienza, emergeva soltanto il dispetto. Inutile, certo, ma non ignobile. In piedi parlava in dialetto e gesticolava, pietoso burattino che aveva ridicolmente ragione. «Io, eccellenza, avevo votato no! No! 100 volte no! Ricordavo quello che mi avevate detto, la necessità, l'inutilità, l'unità, l'opportunità. Avrete ragione voi, ma io di politica non me ne sento. Lascio queste cose agli altri. Ma Ciccio Tumeo è un galantuomo, povero e miserabile, coi calzoni sfondati, e percuoteva sulle sue chiappe gli accurati rattoppi dei pantaloni da caccia, e il beneficio ricevuto non lo aveva dimenticato. E quei porci in municipio si inghiottono la mia opinione, la masticano e poi la cacano via, trasformata come vogliono loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco. Per una volta che potevo dire quello che pensavo, quel succhiasangue di Setara mi annulla. Fa come se non fossi mai esistito, come se fossi niente, immischiato con nessuno. Io, che sono Francesco Tumeo Lamanna Fulleonardo, organista della madrechiesa di Donna Fugata, padrone suo 1000 volte e che gli ho anche dedicato una mazurka composta da me quando è nata quella... E si morse un dito per frenarsi, quella smorfiosa di sua figlia. A questo punto la calma discese su Don Fabrizio, che finalmente aveva sciolto l'enigma. Adesso sapeva chi era stato strangolato a Donna Fugata, in 100 altri luoghi, nel corso di quella nottata di vento lercio. Una neonata, la buona fede, proprio quella creaturina che più si sarebbe dovuta curare, il cui irrobustimento avrebbe giustificato altri stupidi vandalismi inutili. Il voto negativo di Don Ciccio, 50 voti simili a donna fugata, 100.000 no in tutto il regno, non avrebbero mutato nulla al risultato, lo avrebbero anzi reso più significativo e si sarebbe evitata la storpiatura delle anime. 6 mesi fa si udiva la voce dispotica che diceva «Fai come dico io o saranno botte». Adesso si aveva di già l'impressione che la minaccia venisse sostituita dalle parole molli dell'usuraio. «Ma se hai firmato tu stesso, non lo vedi? È tanto chiaro. Devi fare come diciamo noi, perché, guarda la cambiale, la tua volontà è uguale alla nostra». Don Ciccio tuonava ancora. «Per voi, signori, è un'altra cosa. Si può essere ingrati per un feudo in più. Per un pezzo di pane la riconoscenza è un obbligo. Un altro paio di maniche ancora è per i trafficanti come Sedara, per i quali approfittare è legge di natura. Per noi, piccola gente, le cose sono come sono. Voi lo sapete, eccellenza. La buon'anima di mio padre era guardacaccia nel casino reale di Sant'Onofrio, già al tempo di Ferdinando IV, quando c'erano qui gli inglesi. Si faceva vita dura, ma l'abito verde reale e la placca d'argento conferivano autorità. Fu la regina Isabella, la spagnola, che era duchessa di Calabria allora, a farmi studiare, a permettermi di essere quello che sono, organista della Madre Chiesa, onorato della benevolenza di Vostra Eccellenza. E negli anni di maggior bisogno, quando mia madre mandava una supplica a corte, le 5 onze di soccorso arrivavano sicure come la morte, perché là, a Napoli, ci volevano bene. Sapevano che eravamo buona gente e sudditi fedeli. Quando il re veniva, erano manacciate sulla spalla di mio padre. «Don Lionà, ve vorria tante come a voi, fedeli sostegni del trono e della persona mia». L'aiutante di campo poi distribuiva le monete d'oro. Elemosine le chiamano ora, queste generosità di veri re. Lo dicono per non dover darle loro, ma erano giuste ricompense alla devozione. E oggi, se questi santi re e belle regine guardano dal cielo, che dovrebbero dire? Il figlio di Don Leonardo Tumeo ci ha tradito. Meno male che in paradiso si conosce la verità. Lo so, eccellenza, le persone come voi me lo hanno detto. Queste cose da parte dei reali non significano niente, fanno parte del loro mestiere. Sarà vero, è vero, anzi. Ma le 5 onze d'oro c'erano, è un fatto. E con esse ci si aiutava a campare l'inverno. E ora che potevo riparare il debito, niente, tu non ci sei. Il mio no diventa un sì. Ero un fedele suddito, sono diventato un borbonico schifoso. Ora tutti savoiardi, ma io i savoiardi me li mangio col caffè, io! E tenendo fra il pollice e l'indice un biscotto fittizio, lo inzuppava in una immaginaria tazza. Don Fabrizio aveva sempre voluto bene a Don Ciccio, ma era stato un sentimento nato dalla compassione per ogni persona che da giovane si era creduta destinata all'arte e che da vecchio, accortosi di non possedere talento, continua ad esercitare quella stessa attività su scalini più bassi, con in tasca i propri poveri sogni, e compativa anche la sua contegnosa miseria. Ma adesso provava anche una specie di ammirazione per lui, e nel fondo, proprio nel fondo della sua altera coscienza, una voce chiedeva se per caso Don Ciccio non si fosse comportato più signorilmente del principe di Salina. E i Sedara, tutti questi Sedara, da quello minuscolo che violentava l'aritmetica a donna fugata, a quelli maggiori a Palermo, a Torino, non avevano forse commesso un delitto strozzando queste coscienze? Don Fabrizio non poteva saperlo allora, ma una parte della neghittosità, dell'acquiescenza per la quale durante i decenni seguenti si doveva vituperare la gente del Mezzogiorno, ebbe la propria origine nello stupido annullamento della prima espressione di libertà che a questo popolo si era mai presentata. Don Ciccio si era sfogato, ma temette di aver recato fastidio a Don Fabrizio e la di lui sollecitudine si affrettava a cercare i mezzi per fugare le ombre accumulatesi per sua colpa, credeva, sul ciglio olimpico del principe. Il mezzo più immediatamente idoneo era quello di proporre di riprendere la caccia. E così fu fatto. Thank you. Sorprese durante la loro siesta meridiana, alcune sventurate beccacce e un altro coniglio caddero sotto i colpi dei cacciatori. Via via che le ore passavano e che il ritorno a Donna Fugata si avvicinava, la preoccupazione, il dispetto, l'umiliazione per la imminente conversazione con il plebeo sindaco opprimevano il principe, che sentì il bisogno di possedere più ampie informazioni sull'avversario, o, per meglio dire, di sondare l'opinione della gente riguardo al passo che stava per compiere. «Don Ciccio, statemi a sentire. Voi, che vedete tante persone in paese, che cosa si pensa veramente di Don Calogero a Donna Fugata?» A Tomeo, in verità, sembrava di aver già espresso con sufficiente chiarezza la propria opinione sul sindaco, e così stava per rispondere quando gli balenarono in mente le vaghe voci che aveva inteso sussurrare circa la dolcezza degli occhi con i quali Don Tancredi contemplava Angelica, ed allora venne assalito dal dispiacere di essersi lasciato andare a manifestazioni tribunizie che forse puzzavano alle narici del principe se quel che si assumeva era vero. «Dopotutto, eccellenza, Don Calogero Sedara non è peggiore di tanta altra gente venuta su in questi ultimi mesi». L'elogio era modesto, ma fu sufficiente a permettere a Don Fabrizio di insistere. «Perché, vedete, Don Ciccio, a me interessa molto di conoscere la verità su Don Calogero e la sua famiglia. La verità, eccellenza, è che Don Calogero è molto ricco, e molto influente anche, che è avaro. Quando la figlia era in collegio, lui e la moglie mangiavano in due un uovo fritto, ma che quando occorre sa spendere. E poiché ogni tarì speso nel mondo finisce in tasca a qualcheduno, è successo che molta gente ora dipende da lui. Intelligente come un diavolo, del resto. Vostra eccellenza avrebbe dovuto vederlo nella primavera scorsa. Andava avanti e indietro in tutto il territorio come un pipistrello, in carrozzino, sul mulo, a piedi, pioggia o sereno che fosse. E dove era passato si formavano circoli segreti, si preparava la strada per quelli che dovevano venire. Un castigo di Dio, eccellenza, un castigo di Dio. E ancora non vediamo che il principio della sua carriera. Fra qualche mese sarà deputato a Torino e fra qualche anno, quando saranno posti in vendita i beni ecclesiastici, pagando 4 soldi, si prenderà i feudi di Barca e di Bascidaro e diventerà il più gran proprietario della provincia. Questo è Don Calogero, eccellenza, l'uomo nuovo come deve essere. È peccato, però, che debba essere così. Ma gli altri di casa, Don Ciccio, gli altri... come sono veramente? Eccellenza, la moglie di Don Calogero non l'ha vista nessuno da anni, meno di me. Esce soltanto per andare a messa, alla prima messa, quella delle 5, quando non c'è nessuno. A quell'ora servizio di organo non ce n'è, ma io una volta ho fatto una levataccia apposta per vederla. Parola d'onore, eccellenza, essa è bella come il sole. E non si può dar torto a Don Calogero, se scarafaggio come lui, se la vuol tenere lontana dagli altri. Però, anche dalle case meglio custodite, le notizie finiscono col gocciolare, le serve parlano, e pare che Donna Bastiana sia una specie di animale. Non sa leggere, non sa scrivere, non conosce l'orologio, quasi non sa parlare. Una bellissima giumenta, voluttuosa e rozza. È incapace anche di voler bene alla figlia. Buona ad andare a letto e basta. Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Lo sapete, eccellenza, di chi è figlia Donna Bastiana? Voltatosi, si alzò sulla punta dei piedi e con l'indice mostrava un lontano gruppetto di case che sembravano scivolare giù dal dirupo di un colle ed esservi a malapena inchiodate da un campanile miserabile, un borgo crocifisso. È figlia di un vostro affittuario di Runci. Peppe Giunta si chiamava, e tanto sudicio e torvo era che tutti lo chiamavano Peppe Merda, scusate la parola, eccellenza. Thank you. Molte di queste cose erano già note a Don Fabrizio ed erano state passate in bilancio, ma il soprannome del nonno di Angelica non lo conosceva. Esso apriva una prospettiva storica profonda, svelava abissi in paragone dei quali Don Calogero sembrava un'aiola da giardino. Sentì veramente il terreno mancargli sotto i piedi. Come avrebbe fatto Tancredi a mandar giù anche questo? E lui stesso. La sua testa si mise a calcolare quale legame di parentela avrebbe potuto unire il principe di Salina, zio dello sposo, al nonno della sposa. Non ne trovò. Non ve n'erano. Angelica era Angelica, un fiore di ragazza, una rosa, cui il soprannome del nonno era servito solo da fertilizzante. Di tutto mi avete parlato, Don Ciccio, di madri selvagge e di nonni fecali, ma non di ciò che mi interessa di più, della signorina Angelica. Il segreto sulle intenzioni matrimoniali di Tancredi, benché ancora embrionali sino a poche ore prima, sarebbe stato certamente divulgato se per caso non avesse avuto la fortuna di mimetizzarsi. Senza dubbio erano state notate le frequenti visite del giovane alla casa di Don Calogero, come pure i suoi sorrisi rapiti. Le mille piccole premure, abituali e insignificanti in città, divenivano sintomi di violente brame agli occhi del puritanesimo Donna Fugasco. Per fortuna si era prodotto un fenomeno relativamente frequente da noi. Il desiderio di malignare aveva mascherato la verità. Tutti si erano costruiti il pupazzo di un Tancredi libertino che aveva fissato la propria lascivia su Angelica e che armeggiasse per sedurla. E basta. La partenza di Tancredi troncò poi queste fantasie e non se ne parlò più. Della signorina Eccellenza non c'è niente da dire. Essa parla da sé, i suoi occhi, la sua pelle, la sua magnificenza sono esplicite e si fanno capire da tutti. Credo che il linguaggio che parlano sia stato ben compreso da Don Tancredi, o sono troppo maligno a pensarlo. In lei c'è tutta la bellezza della madre senza l'odor di beccume del nonno. È intelligente, poi. Avete visto come questi pochi anni a Firenze sono bastati a trasformarla? È diventata una vera signora. Vederla è una delizia, con quelle trecce nere, quegli occhi, quelle gambe, quel petto. Altro che odore di beccume, le sue lenzuola devono avere il profumo del paradiso. Il principe rivolse a Tomeo un sorriso gattopardesco, ma amichevole. Calmatevi, caro Don Ciccio, calmatevi. A casa ho una lettera di mio nipote che mi incarica di fare una domanda di matrimonio per la signorina Angelica. Da ora in poi ne parlerete col vostro consueto ossequio. Siete il primo a conoscere la notizia. Ma per questo vantaggio dovrete pagare. Ritornata a palazzo sarete rinchiusa a chiave insieme a Teresina, nella stanza dei fucili. Avrete il tempo di ripulirne e oliarne parecchi e sarete posti in libertà soltanto dopo la visita di Don Calogero. Non voglio che niente trapeli prima. Ma questa, eccellenza, è una porcheria. Un nipote, quasi un figlio vostro, non doveva sposare la figlia di quelli che sono i vostri nemici e che sempre vi hanno tirati i piedi. Cercare di sedurla, come credevo io, era un atto di conquista. Così è una resa senza condizioni. È la fine dei Falconeri e anche dei Salina. Detto questo, chinò il capo e desiderò angosciato che la terra si aprisse sotto i suoi piedi. Il principe era diventato paonazzo. Strinse i magli dei suoi pugni e fece un passo verso Don Ciccio. Ma era un uomo di scienza, abituato dopo tutto a vedere il pro e contro delle cose. Tomeo aveva ragione, in lui parlava la tradizione schietta. Però era uno stupido. Questo matrimonio non era la fine di niente, ma il principio di tutto. Era nell'ambito di secolari consuetudini. I pugni si riaprirono. I segni delle unghie rimasero impressi nei palmi. Andiamo a casa, Don Ciccio. Voi certe cose non le potete capire. D'accordo come prima? Siamo intesi? E mentre discendevano verso la strada, sarebbe stato difficile dire quale dei due fosse Don Chisciotte e quale Sancho. Thank you.